dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libri Amoci Web. Libera, solidale, divertente. Tra le righe. Libri, autori, consigli di lettura e non solo, con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe, eccoci qui per un po' di segnalazione di letture per questa settimana. Iniziamo con Cattiveria di Rosario Palazzolo. Palazzolo, regista, attore, drammaturgo e scrittore siciliano, per la precisione palermitano, ha scritto con Cattiveria e non con Cattiveria, un romanzo che offre una lettura diversa sotto tanti punti di vista, dalla punteggiatura, ad esempio, presente nell'abbondare di virgole o assente che sia, nel linguaggio non di rado volutamente sgrammaticato, intriso di idiomi siciliani o fantasiosi, nella trama che si snoda in un arco temporale preciso, 24 anni, dal 1989 al 2013. In Cattiveria c'è una famiglia, una madre, un figlio dal rapporto conflittuale e un padre passivo che non decide da che parte stare. C'è la follia, c'è l'inquietudine di un paese apparentemente prospero, lusingato dalla TV commerciale. C'è la solitudine e c'è una grande infelicità. Come rumore di fondo di Cattiveria è quello che arriva dal televisore acceso. Quel che arriva può far da barriera tra il mondo dentro le quattro mura di casa e il mondo fuori. Cattiveria scorre sotto gli occhi del lettore con una grande forza linguistica che dà forma a un dramma di umana teatralità. Cattiveria di Rosario Palazzolo per Disapop. Nel settembre del 2008 David Foster Wallace venne trovato dalla moglie impiccato nel patio di casa. Moriva quel giorno a soli 46 anni una delle voci più importanti della letteratura americana, definita dal New York Times la mente migliore della sua generazione. Wallace, talentuoso e arguto tanto nella narrativa quanto nella saggistica. Per Einaudi è appena uscito Di carne e di nulla, una raccolta di saggi che negli Stati Uniti è stata pubblicata con il titolo Both Flesh and Not e che nella versione originale contiene due saggi sul tennis. In Italia, al posto di questi due saggi, vi sono due interviste inediti e una divertente chiacchierata con il regista Gus Van Sant. Di carne e di nulla di David Foster Wallace e Einaudi stile libero. È arrivato in libreria l'atteso seguito del Mio nome è nessuno di Valerio Massimo Manfredi. Difatti, dopo il primo capitolo, Il giuramento, è appena uscito per Mondadori Il ritorno. Il viaggio di ritorno a Itaca di Odisseo è l'avventura delle avventure, l'epopea di un uomo e dell'uomo che mette in campo il coraggio, l'intelligenza e la forza. Un mito con cui si sono confrontati molti grandi autori e che trova ora nella scrittura di Valerio Massimo Manfredi una nuova occasione per essere raccontato, una nuova forma nel rispetto comunque dell'opera di Omero. Il mio nome è nessuno, il ritorno di Valerio Massimo Manfredi per Mondadori. Nuova pubblicazione anche per Silvia Vallone, che dopo Acciaio torna tra le mani dei lettori con il romanzo Marina Bellezza, edito da Rizzoli. La storia di una bellissima ventenne che dopo aver inseguito l'affetto del padre preso dalle donne e dal gioco e della madre donna piena di fragilità vuole il riscatto e lo vuole subito e nelle vesti di fama e denaro. Sulla sua strada c'è Andrea, che lavora part-time in biblioteca e che come sogno ha quello di tornare alle origini della sua famiglia e di risalire la montagna. I due si attraggono e si respingono, i loro sogni opposti, e rappresentano il modo con cui i figli di questa nostra epoca possono reinventare il proprio destino e percorrere vie possibili di fronte al crollo della fiducia della maggior parte di noi. Marina Bellezza di Silvia Vallone per Rizzori, e noi ci risentiamo alla prossima. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano che questo programma è realizzato nel rispetto dell'articolo 70 della legge 633 sul diritto d'autore. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente.